sia, o la zoppa che l'alla, con l'icella e la saluta, falle festa, attorno, attorno, e le dica, quattro giorno, visto sempre, sospirà. Eppere, eppere, l'auto per sì.